Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Prendo il microfono da Edo e inizio con l'ultima eclettica della settimana. Lo so che di solito i volumi sono 5, ma questa settimana sono 4, forzatamente, data la festività di domani, il 25 di aprile. Eclettica non andrà in onda, ma come vi sto ripetendo in questi giorni, potreste sempre rimediare, nel caso lo vogliate, con il podcasting, e vedrò di mettere online il più presto possibile, non so se già stasera, magari domani mattina presto di venerdì, le puntate di questa settimana, con l'invio ovviamente anche alla lista nera della playlist. Per essere iscritti alla lista nera, è un po' che non lo dico, ve lo ricordo, basta scrivere a giulio@radiorockfm.com. Anzi, scrivete a giulio@rockfamily.it, così cominciate a memorizzare il nuovo indirizzo. Una volta raggiunta la mia stanza, mi abbandonai sul letto, a peso morto, così che le vecchie molle rumorose del materasso restituirono quasi per intero il mio peso. Contemplai e ricontemplai quel pacco che le sue mani avevano sfiorato solo poche ore prima. La immaginai anche, ad un certo punto, Charlie sul retro del negozio che, in pacchetta presa dalla fretta, quello che aveva tutta l'aria di essere un vinile, magari poi dentro un biglietto, una frase, un numero di telefono o un recapito. Preso da questi pensieri mi affrettai ad aprire il regalo, stracciandone la carta senza cura, in un impeto di curiosità ed aspettative. A mano il colore chiaro del pacco lasciava spazio ad un grigio scuro di fondo. Una lettera o due comparivano in rosa pallido e verde bosco. Infine, completo, il quadro prese forma. The Clash, diceva una piccola scritta in bianco al centro del vinile. London Calling, gridavano le altre lettere, distribuite ai lati degli assi cartesiani della copertina. Immortalata al centro la storica immagine di Paul Simonon che distrugge un basso nel lontano settembre del 79. La conoscevo bene, quell'immagine. Potrei descriverla ad occhi chiusi in qualunque momento. Questo Charlie lo sapeva. Avevo passato la mia adolescenza ad ascoltare quel vinile graffiato in più tracce, fissando quella copertina rovinata di una seconda edizione in pessime condizioni, sognando di essere lì, in mezzo alla folla di quel 1979, battezzato da frammenti di basso e distruzione. Questo era ancora Dove sei, Charlie? Una storia di poesia e rock and roll di Holly Orange. Oh, So, Jake, you're out, you're free, you're rehabilitated. What's next? What's happening? What you gonna do? You got the money you owe us, motherfucker? Una delle tante versioni remix, processo scatenato dagli stessi Radiohead, di Nude. Questa era quella dei canadesi Holy Fuck. Invece in precedenza ci siamo ascoltati un pezzo dei Crystal Stills intitolato Converging the Quiet. Sono stati loro ad aprire Eclettica. Poche parole, voglio lasciare subito lo spazio alla musica. Ci sono i Tears Run Rings che incombono, sta per uscire, anzi ed uscito da pochissimi giorni, quello che è il loro nuovo album per Clare Records, intitolato Always, Sometimes, Seldom, Never. Album le cui atmosfere musicali si riallacciano molto a quelle dell'Inghilterra di parecchi anni fa. Il primo nome che mi viene in mente è quello degli Slowdive. Noi ci ascoltiamo la traccia che è la numero 8 delle 11 in totale all'interno dell'album. Si tratta di Mind the Wires. Misi il nuovo vecchio vinile sul giradischi e partì subito quell'atmosfera di marcia ribelle e lo scandire dei passi di una batteria marziale che chiama all'appello tutti dalle strade di Londra. E mentre la musica continua e i Clash cantano come mille anni fa tra gli infissi della mia adolescenza, guardo ancora silenzioso le carte stracciate del pacco, in cerca di qualcosa che non c'è. Li sentivo su di me, gli occhi di quei due che dall'alto della loro parete mi scrutavano, commentando silenziosamente. Andy, beffardo e vincente, come chi non aspetta altro che il momento di formulare il classico «te l'avevo detto». Jack, un po' sulle sue, lo sguardo basso del senso di colpa, lungo la grande strada di San Francisco. «Tutto è relativamente importante in prospettiva dell'eternità spazio-temporale», accennò il vecchio dottore, pensando così di migliorare le cose. «Ora che Charlie era scomparsa dalla mia vita, così come inaspettatamente era entrata, ora che non l'avrei mai più rivista». Questo era ancora «Dove sei, Charlie?», una storia di poesia e rock and roll di Holly Orange.